100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. La crisi della Popolare dell'Etruria e delle altre tre banche regionali salvate dal governo ha svuotato le tasche di molti investitori, ma quantomeno ha aperto gli occhi dei risparmiatori sulle due regole base di qualsiasi investimento. Non fidarsi mai di chi promette alti guadagni senza rischi. Ricordare che la sicurezza di un prodotto o di un asset finanziario, sia i bond che i fondi, gli ETF o le azioni, non dipende solo dalla sua complessità o dalla liquidità dei mercati, ma anche dall'affidabilità, solvibilità e sicurezza del suo emittente, banca o impresa che sia. Ma c'è un aspetto di cui si parla poco. Tutti questi crediti in sofferenza, questi crediti erogati a imprese e famiglie che non sono stati restituiti alle banche che poi sono finiti in crisi, dove sono finiti? Sono finiti nella cosiddetta bad bank, cioè la banca creata per rimettere in vendita sul mercato tutte quelle sofferenze o, diciamo così, prodotti andati a male che hanno provocato la crisi delle banche. Un fatto interessante in questo momento è quanto avviene in Irlanda, dove un po' come in Italia ci sono state delle banche in crisi salvate dal governo. Ebbene, tutti i prestiti in sofferenza messi in vendita non rappresentano l'unica soluzione per limitare le perdite degli investitori. Le banche, la good bank e la bad bank, sono infatti andate a sequestrare beni personali, gioielli, automobili, aerei, case personali e così via a tutte quelle finanzieri o imprenditori che avevano chiesto soldi in prestito dalla banca senza però restituirglieli. È un segnale importante, uno di quei segnali che rafforza la fiducia e dà l'impressione che non siano sempre solo i risparmiatori a pagare il prezzo delle crisi di altri. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Oggi, a pochi giorni dalla fine dell'anno, sono arrivati alcuni dati sull'andamento dell'economia che confermano quanto sia difficile rispondere a una delle domande più ricorrenti. La crisi è alle spalle, possiamo parlare di un'economia in ripresa? Il punto è che tra ciò che dicono i dati ufficiali e ciò che restituisce la percezione della gente c'è spesso una distanza significativa. Il senso comune ci dice che questa lunga crisi non è ancora archiviata. Tutti siamo colpiti dalle difficoltà che ancora vediamo sull'occupazione, per esempio, che cresce ma non come sarebbe necessario per recuperare il terreno perduto negli anni della recessione. A dire il vero, le stesse previsioni del governo dicono che la ripresa dell'economia è molto meno intensa, meno stabile di quel che si era immaginato. Così i dati macroeconomici arrivati oggi dall'Istat confermano questo andamento, diciamo, altalenante tra buone notizie e notizie meno buone. I consumi a ottobre sono scesi per il secondo mese consecutivo. È vero che nei primi 10 mesi dell'anno l'indice dei consumi è cresciuto dell'1%, ma negli ultimi mesi del 2015, con questi due cali a settembre e a ottobre, sembrano aver riportato un clima di incertezza. Sempre a ottobre vanno invece bene i dati sul fatturato dell'industria, che è in miglioramento, e anche quelli sugli ordinativi. Anche qui c'è un segno più, una piccola ventata di ottimismo sulle prospettive dei prossimi mesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.